Buonasera cari radioascoltatori, siete all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto in studio da Annalisa e da Maurizio. Ciao a tutti. In collegamento da Laia dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Annalisa e Maurizio e buonasera a tutti. Il tema di questa sera intervisteremo due ex minatori che hanno lavorato negli anni 50 e 60 a Marcinelle nella miniera di carbone lo scorso sabato. La redazione di Giro di Boa è stata a Marcinelle lo scorso sabato e in questa occasione abbiamo avuto l'occasione di conoscere due persone che sono state testimoni di quegli eventi, che hanno lavorato proprio nella miniera di Marcinelle. Dovremmo avere in collegamento con noi il signor Urbano Ciacci. Sì, pronto, sono qui, ho ascoltato tutto quello che avete detto. Signor Urbano, lei è il presidente dell'Associazione degli ex minatori di Marcinelle, corretto? Sì. Innanzitutto le vorrei chiedere qual è lo scopo di questa associazione, di che cosa vi occupate, insomma le attività che organizzate per mantenere viva la memoria della vostra esperienza e di quello che è successo. Noi di questa associazione, fino che l'associazione continua, che siamo qui questi poveri anziani, continuiamo fino all'ultimo. La nostra associazione esisterà sempre anche se non siamo più presenti, perché il nostro gagliardetto che abbiamo fondato dal 1985, quanto non ci sarà più presidenti o vicepresidente, il nostro gagliardetto andrà al museo, al Bois di Casier, dove c'è stata questa grande sciagura. Non può riprenderlo un'altra associazione e non si vende, non si compra. Noi, fino a che l'associazione esiste, ex minatori di Marcinelle, che abbiamo fondato, come ho detto, con un prete scalabrino della missione italiana, e continuerà fino a che siamo vivi, e quanto non ci sarà più, questo gagliardetto va al museo, deve restare sempre presente per la nuova generazione. Urbano, sono Alessandra. Dimmi, Bel. Volevo chiederle, ci racconta un po' quando lei è partito dall'Italia, quanti anni aveva e quali erano le condizioni quando lei è partito? Immagino che ci fossero delle condizioni, bisognava probabilmente essere in buona salute, ascolti, eccetera. Allora incominciamo, Alessandra, dal principio. Io quando sono partito c'era i manifesti alla comune, all'entrata delle chiese, hai capito, che chiedevano questa mano d'opera italiana per venire a lavorare in miniera. Allora, come ti ripeto, volevano gente dai 18 ai 40 anni, quello, non dovevano essere né più giovani e non dovevano passare i 40 anni. Si faceva domanda, quando la domanda arrivava si partiva in provincia, a Pesaro, io sono delle Marche, e quando il gruppo era formato si andava a Milano. A Milano c'era il convoglio di tutte le regioni, del nord, del centro, del sud, e 1000 persone, che si partiva col contratto già in mano, marcato sul passaporto, dove si andava a lavorare in miniera, e chi da una parte che da un'altra. E quando siamo arrivati qui a Charleroi, alla stazione, c'era un servizio d'accoglimento che ci guardava sul passaporto, perché era marcato dove si andava a lavorare. Io ero per il Bois di Casier, era la società La Mercœur, c'era la Messu Fontana, c'era il Nord di Charleroi, c'era la Baiba, c'erano tanti nomi, adesso non mi ricordo più, capito? Ma io ero per questo Bois di Casier, e quando il gruppo aveva trovato il servizio di accoglimento, ci hanno portato ancora un dispensario a ripassare delle visite per vedere se non eravamo malati per la notte del viaggio che abbiamo fatto. Mi ricorderò sempre. E del nostro gruppo per il Bois de Cazier c'era due persone che avevano delle punte, delle vene varicose nelle gambe, li hanno rifiutati, li hanno rimandati indietro. Era così, volevano della gente sana. Urbano, quanti anni aveva quando ha lasciato l'Italia? Io sono del 35, sono partito del 54, non avevo ancora 19 anni, che li facevo il 17 ottobre. E per quanti anni ha lavorato in miniera? 25, perché non avevo ancora l'età, ma come ingegnere direttore ero giovane, mi hanno detto te devi andare a scuola. Dico, io a scuola non ho potuto andare, io sono venuto qui come tutti gli altri, finire il contratto, fare un piccolo gruccolo per ritornare al mio paese. Ma allora li ho ascoltati e ho fatto 7 anni di scuola, una settimana lavoravo e una settimana andavo a scuola. Dopo mi sono sposato, è venuto, ho formato una famiglia, mi conveniva di restare qui perché mi hanno fatto capo, capito? Si guadagnava tanti di quei soldini, più premi di produzione, capito? Ho avuto la vita un po' dura, ma facile per levare la famiglia, per far studiare i miei figli, e così mi trovo ancora qua, fuori della mia patria. Senta, ci racconta la giornata della tragedia di Marcinelle dal suo punto di vista. Lei cosa faceva quel giorno? Cosa era in miniera? Questo qui che mi avete detto non arrivo a comprendere bene perché sono un pochino dure di orecchio, mi parla un po' più forte. Le chiedevo di ricordare la giornata in cui c'è stata la tragedia di Marcinelle. Lei cosa, quel giorno, cosa ricorda? Io la giornata della tragedia di Marcinelle, l'8 agosto, ero alla stazione a Milano, ritornavo in Belgio che mi sono sposato con mia moglie, noi siamo arrivati al 9 d'agosto, la tragedia è stata l'8 agosto, io sono ritornato in Belgio con 2 o 3 giorni di ritardo per fare il viaggio assieme con mia moglie, se no altrimenti dovevo aver ripreso lavoro, e ho avuto una fortuna, visto? Ha perso delle persone care in quella tragedia? Come dice? Ha perso delle persone care, degli amici, dei compagni in quella tragedia? Tutti, io dopo un po' di tempo non ho potuto più continuare in quella miniera lì, perché sentivo sempre delle voci che mi chiamavano, vedevo come dei fantasmi, ho cambiato, sono andato in un'altra miniera, in un'altra società, non ho potuto più restare lì, ero molto, per me era troppo sensibile, ancora oggigiorno quanto rivado che vogliono che vado a fare una guida o che vado al cimitero, quando rivedo tutti quei amici mi fa, come voglio dire, la piega si riapre, mi comprende cosa voglio dire? Sì, sì. Senta, ma in generale che ricordo ha della miniera? Dei suoi 25 anni passati in miniera, un buon ricordo le manca? Perché alcuni minatori dicono che la miniera gli manca, lo spirito cameratesco che c'era in miniera. Mi leva un pochino perché non capisco quello che mi ha detto. Le chiedevo se parli un po' più forte. Le chiedevo se la miniera le manca un po', dopo i 25 anni che ha lavorato in miniera, che ricordo ha? Un ricordo in generale positivo o negativo del lavoro in miniera? Sì, a me mi manca tanto, perché era un lavoro che non c'era razzismo là sotto. Tutti per uno, se te facevi una cosa che non era fatta bene, era il pericolo, come tanto per te, tanto per lui. E un operaio quando scendeva, non è che l'indomani andava in un altro posto a lavorare, andava nel proprio posto dove aveva lavorato il giorno avanti, e se aveva fatto il lavoro male, che non aveva garantito che c'era pericolo, lui all'indomani doveva ritornare a lavorare lì. Allora questo era un lavoro che era fare del meglio possibile per tutti, e pertanto è arrivato quello che non doveva arrivare. E dopo di questa catastrofe che è arrivata, la vita ha molto cambiato per tutti. È venuta più sicurezza, è venuto un po' tutti, ma non solo per le miniere, anche per le altre, la siderurgia, per quelli che lavoravano in pieno aria al giorno, c'è stato un cambiamento come il giorno e la notte. Come ho sentito che hanno detto che c'è stato più morti quell'anno lì che dal dopoguerra fino al 62, il 63, perché dopo questa catastrofe è venuta più sicurezza per tutti. Signor Urbano, le vorrei chiedere come si svolgeva la giornata, una giornata tipo in miniera. Per esempio, le vorrei chiedere come si svolgeva una giornata tipo, qual era una giornata in miniera, quante ore si lavorava? Ascolti, noi sì, il turno del mattino si cominciava alle 7, te arrivavi, prendevi la medaglia alle 7 e si scendeva, il primo ascensore scendeva alle 7 e alle 3 doveva essere al giorno, 8 ore, fra il viaggio sotto a 1135 metri o 790, 990, c'era tanti piani per andare sul posto di lavoro, 20 minuti per mangiare, un'altra quarto d'ora, 20 minuti per ritornare all'ascensore, ma le ore erano 8 ore, si scendeva alle 7 e si rimontava alle 3, dovevi essere al giorno, il primo ascensore, perché non si eravamo 400-500 ogni turno quel momento lì. Allora, come la gabbia era di 50 persone, guarda, era due gabbie, uno scende, uno monta, andava svelto, quanti viaggi doveva fare, chi scendeva, mettiamo dire, alle 7:30 doveva riuscire alle 3:30, lì era 8 ore sotto in miniera. Urbano, lei prima diceva che dopo la tragedia di Marcinella le condizioni sono migliorate, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Sì. Si può fare un esempio? Che cosa per lei ricorda che è cambiato molto dopo la tragedia? Ascolti, ha cambiato perché, come ho sentito prima quando c'era la musica che parlavi, ha fatto dal dopoguerra, mi ascolti se faccio un po' lunga, arrivare agli anni 50, dopo c'è stato un stop di questa migrazione per le miniere, e poi hanno riperto, credo, l'emigrazione del 52. Allora, a partire dal 52 fino a questa sciagura, il 56, sono stati fatti dei nuovi contratti per noi. Non era più che un operaio doveva fare 3 metri di carbone di lunghezza su 1 metro di profondità, prendevano a contratto, facevano 10, 15 metri, perché il contratto della nazione italiana col Belgio, più produzione usciva di tonne di carbone e più l'Italia aveva carbone, capito cosa volevo dire? Nel 1955 è stato l'anno che abbiamo battuto tutti i record, e c'è scritto al museo, non so, 178.000 tonne, così non mi ricordo bene. E dopo di questa catastrofe è venuta più sicurezza, più controlli, si lavorava differente. Signor Urbano, le vorrei chiedere com'è stata l'accoglienza della gente di Marcinelle, della gente di Charleroi quando è arrivato in Belgio. Ripetimi, che non ho capito. Sì, le vorrei chiedere come lei è stato accolto dalla gente di Marcinelle, dalla gente di Charleroi quando è arrivato, che tipo di accoglienza ha avuto? C'è stato sempre delle cose fredde, le spiego in due cose. Sai, eravamo noi emigrati, ci avevano promesso sul contratto delle case, qua siamo arrivati, case non ce n'era, c'era case, baracche di ferro, di legno, dove sono stati i prigionieri tempo della guerra, si andava a domandare una casa, dicevano che gli italiani non l'affittavano, è stata un po' dura. Dopo questa tragedia che è arrivato, c'è stato un cambiamento per noi italiani, perché il governo non mandava più la mano d'opera per lavorare in miniera. Allora la nazione belga si è rivolta a altre nazioni, spagnoli, greci, turchi, e allora noi ci siamo integrati, è venuta una vita un po' più facile. Chi ha voluto fermarsi qua, restare qua, se no altrimenti c'era dei miei paesani, finiti il contratto, sono ritornati in Italia, non si trovavano, sono rivenuti, hanno fatto due o tre volte, io sono arrivato e mi sono fermato e mi trovo ancora qua, non ho fatto, è stata un po' dura, soprattutto la nostra cultura, la lingua, tutto, ma è l'emigrato, è così, se te non sei forte per sopportare finisci, capito? Bisogna essere a fare la vita di emigrato, bisogna essere, come ripeto, forti e non guardare, capito, e andare via sempre a testa alta, lavorare, non fare due o tre giorni come facevano tanti di lavoro per restare in regola. Se te è espatriato che hai voglia di fare qualche cosa, bisogna lavorare tutti i giorni per arrivare a migliorare la vita, se no altrimenti sarei restato anche io in Italia per il sole, la stagione, ma siamo ancora italiani, non c'è niente che cambia, la mia famiglia è tutta italiana ancora. Signor Urbano, siamo quasi in chiusura, vorrei chiedere a Maurizio qui da studio e ad Alessandra se hanno un'ultima domanda da farle. Tu, Alessandra? Sì, io volevo fare una domanda. Il signor Urbano... Dimmi, parla un po' forte, perché delle volte ti sento bene, delle volte non ti sento. Signor Urbano, lei ha lasciato l'Italia nel 54. Sì. Ed è, come diceva prima, marchigiano. Che cosa le manca delle Marche, di Pesaro? Ascolta, lo sai, io non so di che regione sei te, la nostra regione, le Marche, è una grande regione che fa parte, confiniamo con l'Emilia Romagna, confiniamo con la Toscana e con l'Umbria, sono le quattro regioni del centro-nord che si vive bene, sono delle grandi regioni, poi l'Italia è tutta bella, dal nord al sud, capito? Noi ritorniamo tutti gli anni, dal 58 siamo ritornati sempre tutti gli anni, e delle volte, sai, ci dicono quanto arriviamo là in Italia, il belga arriva, quanto rientriamo qua, l'italiano è arrivato, non lo vogliono più, vedi, è l'emigrazione, se te non sei, è difficile a digerirla. Maurizio, grazie, vuoi fare una domanda da studio? No, io lo volevo solo ringraziare, volevo solo ringraziarla per la disponibilità e salutarla e niente, augurare tutto il meglio anche per l'associazione. Grazie signor Urbano per essere intervenuto e un caloroso saluto e un abbraccio da parte della redazione di Giro di Boa qui a Radio Alma. Arrivederla. Bene, abbiamo ascoltato la testimonianza di Urbano Ciacci, appunto, che è stato ha lavorato, alla, come ci ha raccontato, alla miniera di Marcinelle, al Bois de Casier, e in attesa di collegarci, di stabilire il collegamento con il signor Mario Ziccardi, un altro ex minatore, sempre membro dell'associazione appunto degli ex minatori di Marcinelle, chiederei a Giulio di mandare in regia, di mandare in onda un contributo, un estratto che ci ha preparato Maurizio. Maurizio, che cosa hai preparato in occasione appunto del tema che avremo trattato questa sera? È un estratto di una trasmissione radiofonica fatta da Mario Perrotta, che è un attore, che ha fatto uno studio proprio sui minatori italiani in Belgio e ne ha tratto appunto una trasmissione radiofonica e uno spettacolo, ed è un estratto in cui Mario Perrotta fa un monologo dialogo in cui interpreta il personaggio di un bambino e di un minatore che gli spiega cos'è la vita in miniera, cos'era la vita in miniera. Giulio può mandare il contributo che si commenta da solo, direi. Ritornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera, cari radioascoltatori, abbiamo toccato il tema delle testimonianze di ex minatori italiani che hanno lavorato nelle miniere di Marcinelle, al Bois de Casier. Abbiamo parlato con Urbano Ciacci, il presidente dell'associazione degli ex minatori di Marcinelle. E Alessandra, Maurizio, è stata un'intervista molto, molto interessante, anche molto toccante, io credo. Sì, anche il pezzo che abbiamo appena ascoltato racconta un po' proprio cos'era la vita dei minatori nella miniera, questa specie di rapporto di amore e odio che poi si stabiliva fra il minatore e la miniera, perché quando tu entri la mattina a lavorare devi decidere se entrare di schiena o di pancia, perché poi la vena di carbone è talmente stretta che non ti puoi girare. Quando devi addirittura fare i tuoi bisogni corporali nella miniera mentre scavi, quando la tua vita dipende da quello che fanno i tuoi compagni, si crea, penso, non ci ho mai lavorato in miniera, ma credo si crei proprio questo amore odio, e tanto è vero che il signor Urbano, insomma, ce lo diceva, che la miniera gli manca, probabilmente gli manca uno spirito di camerata, che insomma non trovi da, non è che in tutti i lavori la tua vita dipende da quello che fanno i tuoi compagni, insomma. Sì, senz'altro due prospettive abbastanza diverse della stessa avventura. Per quanto riguarda il signor Urbano, io credo, io non lo so, io l'ho sentito prima nel pomeriggio, abbiamo discusso un attimo, sembrava di parlare con mio nonno, ragazzi, sinceramente. Di una gentilezza immensa, di un orgoglio di essere italiano che veramente mi fa riflettere, e soprattutto quello che ha detto sugli immigrati, sul fatto che bisogna essere forti, credo che questo valga ancora oggi. Cosa ne pensate voi? Sì, penso che comunque dovremmo imparare ad ascoltare di più le parole di gente che ha vissuto delle esperienze che noi probabilmente o ancora non abbiamo vissuto e probabilmente non vivremo, e soprattutto di gente che magari fra qualche anno non sarà più lì a raccontare certe cose. Quindi la testimonianza che oggi ci ha dato il signor Urbano è importante anche per quello, perché parla di un'epoca che ormai è passata, nonostante il carbone c'è qualcuno che lo vorrebbe rispolverare, nonostante che comunque i minatori ancora muoiano oggi. E soprattutto in Cina, dove di tanto in tanto si sente di tragedie con centinaia, se non migliaia di morti, e figuriamoci quelle che non sappiamo, ma anche in Romania, nell'Europa dell'Est, insomma, le stesse morti bianche in Italia, direi che possono essere un po' quello che è oggi per noi, quello che è stato Marcinelle per loro, insomma, nel 56. Però la memoria delle persone anziane, la memoria degli immigrati, anche qui in Belgio, secondo me è una cosa dal valore incommensurabile. Tra poco manderemo in onda un'intervista che la redazione di Giro di Boa ha realizzato con Nicky Vendola, presidente della Regione Puglia, sabato scorso proprio al Bois de Casier, a Marcinelle. Mi fanno cenni dalla regia però che l'intervista ancora non è pronta, per cui nel frattempo, in attesa, mandiamo in onda una pausa musicale. Dal Bois de Casier a Marcinelle Giro di Boa intervista il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola. Presidente Vendola, dall'emigrazione degli anni 50 e 60 alla fuga dei cervelli dei tempi moderni, è il destino del mezzogiorno italiano? Ma in tutti i sud del mondo hanno vissuto una strana condizione, quella di essere il luogo della bellezza, il luogo dell'umanità, della socialità, delle relazioni ricche, ma anche il luogo in cui la promessa del lavoro non è stata mai mantenuta o è stata una promessa bugiarda per troppe persone e per troppe generazioni. Non c'è alcun dubbio che l'emigrazione, che è cominciata all'inizio del XX secolo e è andata avanti fino a tutto il dopoguerra, Seconda Guerra Mondiale, è stata prevalentemente una emigrazione di braccia. Erano le braccia, erano, diciamo, i protagonisti del lavoro manuale, abituati al più duro lavoro delle campagne, e il duro lavoro delle campagne era quello di rompere le pietre, di sodare la terra, seminare in territori impervi. E quindi è stata una grande emigrazione, diciamo così, di quella manodopera che era l'esercito di riserva per le grandi ricostruzioni in altre aree del mondo, perché servivano al triangolo industriale del nord Italia, servivano le miniere del Belgio, servivano in Germania, in Svizzera, nelle fabbriche, perché gli italiani hanno fatto sempre i lavori che i lavoratori delle nazioni ospitanti non volevano far più. E qui in Belgio pochi lavoratori del Belgio volevano restare nelle miniere, avevano conosciuto durante la Seconda Guerra Mondiale l'esperienza delle miniere, perché era stato anche un modo, diciamo così, per scansare la guerra, e avevano scelto la miniera. Finita la guerra, la miniera diventa un destino degli altri, soprattutto un destino degli italiani. Oggi, diciamo negli ultimi 30 anni, dal sud d'Italia è partita una emigrazione prevalentemente giovanile e intellettuale. Ed è, come dire, una fuga dell'intelligenza sociale, una fuga del capitale sociale fondamentale che noi abbiamo. In fondo un ragazzo laureato è un ragazzo su cui i nostri territori hanno investito, hanno speso dei soldi, risorse, e quel ragazzo va a produrre PIL da un'altra parte del mondo. E quindi c'è davvero un elemento che è catastrofico ed è paradossale. Per queste ragioni la mia regione, la regione Puglia, negli anni del mio governo ha messo in campo programmi che sono considerati dall'Unione Europea programmi d'avanguardia. Bollenti Spiriti, per esempio, che è un programma col quale noi finanziamo l'alta specializzazione dei migliori talenti pugliesi, quelli che hanno il peggior reddito e il miglior libretto universitario, gli consentiamo di fare la specializzazione nelle migliori università del mondo o in altre esperienze importanti, gli chiediamo poi di venire a cercare lavoro in Puglia, e nel frattempo stiamo lavorando col sistema di impresa perché possa essere ricettivo, perché possa comprendere che per essere competitivo deve smetterla di pensare a stringere il costo del lavoro, ma deve assumere giovani talenti che garantiscono, diciamo così, il percorso verso l'innovazione. Ricostruzione in Abruzzo dopo il devastante terremoto della settimana scorsa, come la regione Puglia ha contribuito agli aiuti e sicuramente sta contribuendo agli aiuti tuttora? Ma noi abbiamo messo immediatamente a disposizione tutto quello che abbiamo, le nostre strutture sanitarie e ospedaliere, la nostra protezione civile. La regione Puglia fino a 2 anni fa non aveva nulla, ma proprio nulla di protezione civile. Oggi credo di poter dire che ha il modello più organizzato e più avanzato di protezione civile che c'è nel paese. Abbiamo messo a disposizione le nostre università. Nei prossimi giorni, nella sessione di bilancio, io istituirò un capitolo specifico, un fondo di aiuto per le vittime del terremoto. E penso, diciamo, soprattutto di fare questo, di esportare in Abruzzo un'esperienza specifica che noi abbiamo fatto, di recupero di immobili urbani per trasformarli in laboratori di comunicazione, cultura, multimedialità. Vogliamo costruire per loro un laboratorio così e vorrei portare l'equipe mia pugliese che lavora su questo. È uno, diciamo, dei pezzi della cultura del recupero che è necessario mettere in campo anche per allontanarsi da questa idea cinematograficamente agghiacciante delle New Towns. L'Abruzzo è una sequela di meravigliosi borghi storici che vanno restituiti alla propria integrità e alla propria vita. Tra poco si aprirà la campagna elettorale per le elezioni europee. Riuscirà l'Italia a incentrare questa campagna elettorale su temi europei, temi legati all'Unione Europea, oppure ci sarà la solita campagna elettorale legata ai temi della politica italiana? Ma l'Europa non può essere una specie di pretesto, la cornice di una competizione elettorale. L'Europa è la sostanza di questo scontro elettorale. Oggi c'è un'Europa che è un po' penosa, se devo dire la verità. Non è soltanto il vecchio continente, è un continente vecchio, è un continente malato, è un continente che non fa più figli, è un continente che non produce più un'idea, è un continente che si sente assediato da coloro che invece rappresentano l'unica possibilità di salvezza, cioè i migranti. È un continente, diciamo, le cui miserie sono rappresentate nella pochezza di un leader europeo che a fronte della saggezza di Barack Obama, che dice l'Unione Europea non può che guardare a Istanbul, non può che estendersi verso la Turchia, per ragioni di politica interna dice no grazie, i turchi no. L'Europa di questi anni è stata veramente un gigante economico e un nano politico, è stata come dire, in continuo esilio dai propri doveri. Un'Europa che, se c'erano le stragi a Gerusalemme, girava la testa da un'altra parte, un'Europa che non ha saputo ricostruire il proprio ruolo nel Mediterraneo e nel mondo, e il proprio ruolo è sempre stato un ruolo di pace, di sviluppo, di cooperazione e di dialogo. Nel mondo dello scontro di civiltà, nel mondo di un gruppo di cowboy, petrolieri, analfabeti e criminali, che hanno dominato la scena del pianeta, l'Europa invece di far sentire la propria voce, diciamo così, ha balbettato. C'è bisogno che invece l'Europa dica con grande nitidezza le parole di pace, le parole che riguardano i diritti sociali, i diritti di libertà, che un tempo facevano di questo continente un posto speciale. Oggi è un posto poco speciale. Sinistra e libertà, movimento di idee o partito politico? Oggi è, diciamo così, un cantiere, l'abbozzo di un'idea, più che un partito è un partire, spero verso un partito. C'è bisogno di un partito che del Novecento erediti il sentimento della giustizia sociale, la battaglia sempre nuova per la libertà. Non c'è bisogno, secondo me, di far rivivere le tradizioni in cui la sinistra europea si è divisa nel corso del Novecento, perché credo che oggi davvero siamo a un punto di svolta epocale, di cambiamento, che merita una sinistra di cambiamento. Grazie Presidente Vendola per essere intervenuto a Giro di Boa e per averci dedicato il suo tempo. E il Giro di Boa è ciò che tutti auspichiamo per l'Italia e per l'Europa. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato un'intervista che abbiamo realizzato lo scorso sabato a Marcinelle con Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia. Cari radioascoltatori, siamo quasi in chiusura, vorrei ricordare il contributo alla puntata di questa sera di Urbano Ciacci, ex minatore nella miniera di Marcinelle, presidente dell'associazione ex minatori Marcinelle. Vorrei ringraziare la redazione di Giro di Boa, Alessandra in collegamento dall'Olanda. Grazie Annalisa, è stato un piacere. Una buona serata a voi in studio, a Giulio in regia e ovviamente ai nostri amici radioascoltatori che ci ascoltano. Un grazie a Maurizio e grazie per l'estratto che ha contribuito per questa puntata di Giro di Boa. Grazie a voi, ciao Alessandra, ciao Giulio, ciao Annalisa. E un grazie a Giulio per il supporto in regia. Grazie Giulio e a risentirci, a presto.